Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Molte reazioni oggi, come già vi raccontavano i nostri GR24, sulla stima del Fondo Monetario sul PIL italiano che vi abbiamo raccontato ieri all'1,3%, è oggettivamente la stima più alta di quelle tra OCSE, Governo e Commissione Europea e anche Istat, ma ben venga. Bisogna capire se poi sarà confermato o no, perché il Fondo Monetario si basa sui dati che noi gli forniamo. Oggi invece ci occuperemo di un dato Istat che è di carattere economico, anche se uno potrebbe dire è demografia, ma la demografia è una variabile economica non da poco. Mi riferisco all'Istat che certifica per il secondo anno consecutivo il calo dei residenti in Italia, sono 60.589.000, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari all'8,3% dei residenti, e gli stranieri sono il 10% nel centro-nord, il 4% nel mezzogiorno. E prosegue quindi il calo dei residenti, il saldo infatti è negativo rispetto al 2015 di 76.000 persone, e soprattutto della parte italiana, meno 96.000, mentre la popolazione straniera aumenta di 20.000 unità. Lo dico prima delle polemiche, non stiamo parlando di numeri significativi sul totale, ma di una tendenza, quella sì, significativa, cioè il saldo negativo dei residenti si determina principalmente per minori residenti italiani, mentre la popolazione straniera aumenta di 20.000 unità. Qual è il motivo del calo dei residenti? Beh, chi va all'estero, e anche un flusso migratorio tra sud e nord. Per esempio la popolazione, sono più di 1.330.000 le persone, sono 50.000 più rispetto al 2015, che si sono trasferite all'interno delle regioni italiane, soprattutto dal mezzogiorno verso il nord e il centro. Il tasso migratorio oscilla tra il meno 4 per mille della Basilicata e il più 2,2 per mille, cioè più residenti delle province autonome di Bolzano. Tutte le regioni del sud presentano valori negativi, cioè hanno avuto un deflusso di persone, a cui si aggiungono anche però Marche, Umbria e Valle d'Aosta. Le regioni più attrattive sono Emilia Romagna e Toscana, più 5,4 per mille, poi la Liguria più 4,8 per mille, la provincia autonoma di Bolzano appunto più 4,3 per mille. Allora, questo si lega chiaramente al tasso demografico, perché continua dal 2008 ininterrotto il calo delle nascite, e per il secondo anno di fila i nuovi nati sono stati meno di 500.000, 473.000, in calo ancora sul 2015, 12.000 unità, di cui 70.000 stranieri, 14% dei nuovi nati sono stranieri, anch'essi però in calo. Quindi gli stranieri sono l'8% dei residenti e il 15% dei nuovi nati. Anche questo in calo, e quindi per i residenti italiani il deficit è amplissimo, pari a 204.000 unità, che è il risultato del combinato disposto tra un calo ulteriore delle nascite e fenomeni migratori degli italiani che vanno a lavorare all'estero. Di questo parleremo. C'è anche un cotè che riguarda la tenuta pensionistica, come scrive oggi sul Sole 24 Ore Davide Colombo. Nel 2040, sulla base di queste proiezioni, ci troveremo ad avere in età da lavoro solo il 57% della popolazione, mentre attualmente siamo intorno al 65% della popolazione. Quindi meno persone che devono pagare più persone. Più pensionati, gli over 64enni saranno nel 2040 oltre il 31% del totale, adesso sono il 27% del totale, e di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece il mondo bancario, per due motivi: perché si sta cercando una soluzione in extremis per le due banche venete. Oggi tra l'altro c'è stato il Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo, il sistema bancario non ha escluso la possibilità di un intervento, Intesa San Paolo ha preso tempo, però ha detto adesso vedremo, Nel senso, Benetton ha detto che non sottoscriverà un aumento. Il presidente del Veneto Zaia ha detto: attenzione, il costo del salvataggio è 1 miliardo contro 11 miliardi che costerebbe il bail-in. Ne parleremo anche con chi rappresenta il principale sindacato del mondo bancario, la FABI, che oggi ha tenuto il Consiglio Nazionale della Federazione. La FABI è la principale organizzazione sindacale dei bancari italiani. E anche di questo parleremo, così come della borsa. Borsa, per quello che riguarda la giornata odierna a Milano, ma non solo, positiva, dello 0,70% a Milano, dello 0,40% a Parigi, dello 0,50% a Francoforte, dello meno 0,23% a Londra, euro su dollaro 1,12, bene quasi tutti i titoli, di negativo c'è solo Snam -0,80, Campari -0,70 come Saipem, Luxottica +3,40, Ubibanca +3%, Biper +2,30 come Buzzi Unicem, il 2,20 lo guadagna Unipol, il 2% Fiat Chrysler, l'1,70 Generali, Yux, Net-a-Porter ed Exor, l'1,5 rialzo di Finecobanche, Prismian e anche di Recordati, l'1,3% lo guadagna Moncler. Allora, l'ultimo numero che do prima delle notizie in breve è il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vi ricordo che il programma è trasmesso anche via video su Facebook. Allora, intanto parliamo di Verizon. Che cosa è successo? Addio a Yahoo, sostanzialmente. Verizon infatti ha completato l'acquisizione da 4,5 miliardi di dollari per quello che riguarda Yahoo, e lo annuncia appunto la stessa Yahoo. E le parti dell'azienda non acquistate da Verizon cambieranno nome, si chiameranno Altaba. Tim Cook ha detto, per quello che riguarda invece l'Apple, che si stanno concentrando su sistemi autonomi di guida, quindi ha confermato l'obiettivo della mela nel settore auto. Andando dagli Stati Uniti all'Europa, in Gran Bretagna l'inflazione sale ancora, sullo sfondo c'è un effetto Brexit, 2,9% i prezzi al consumo in Gran Bretagna, e devo dire che oggi, in maniera così maliziosa, Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, il falco tedesco, ha detto: beh, se la Gran Bretagna dovesse cambiare idea sulla Brexit, le porte sarebbero aperte. È chiaro che il governo britannico che deve prendere le proprie decisioni. È chiaro che, insomma, in questo momento, visto che la Gran Bretagna è in un totale impasse sulla Brexit, cioè non ha ancora deciso se vuole farla dura, la hard Brexit, o soft, come propongono alcune persone, penso oggi al cancelliere dello scacchiere Osborne, insomma, e dicono: no, teniamo uno spazio doganale condiviso con l'Unione Europea. Beh, insomma, e il risultato elettorale complica ulteriormente la situazione, perché nemmeno i conservatori sono più convinti di andare verso una hard Brexit. È chiaro che Schäuble ha gioco facile nel dire: beh, insomma, se ci volete ripensare, noi saremo generosi. In realtà non è questo il tema, il problema è che la Gran Bretagna non ha ancora ben capito, sembra un po' di assistere alla pancia e alla testa che non dialogano, cioè la pancia è quella di dire: bene, basta, abbiamo votato e usciamo dall'Europa, poi la testa significa fare i conti con i costi che questo avrebbe e con le convenienze o no per i britannici stessi. Allora, per quello che riguarda invece i migranti, intanto segnalo una cosa, che l'OCSE oggi, in un rapporto molto articolato, fa notare come in tutti i paesi dell'OCSE il divario dei redditi che si riscontra non ha precedenti e mette a rischio la tenuta sociale. Questo l'abbiamo raccontato molte volte anche per spiegare il successo di Trump. C'è un conto è prendere il dato aggregato e dire che l'economia americana è cresciuta e sicuramente è cresciuta più di quella europea, si è ripresa prima e quant'altro, che ha creato occupazione. Poi quando va a vedere l'occupazione ti accorgi che l'occupazione è di bassa qualità o che comunque all'interno di questa crescita complessiva c'è, come nella media dei polli di Trilussa, chi di polli ne mangia due e chi ne mangia zero, e la media fa sempre un pollo a testa. Beh, questo ha delle ripercussioni anche politiche. Gurria, diciamo, nel dire una cosa corretta, scopre l'acqua calda. Fa notare come il reddito medio del 10% più ricco della popolazione nell'area OCSE è 9 volte più alto rispetto al 10% più povero. Se 25 anni fa il reddito medio del 10% più ricco era, tra virgolette, solo 7 volte più alto del 10% più povero, quindi in 25 anni è diventato 9 volte. E tra l'altro il 9, ha detto Gurria che il 9% dei posti di lavoro nell'area OCSE potrebbe essere automatizzato, quindi sostituito dai robot nei prossimi anni. Sull'Europa ancora due dati. La Commissione Europea ha deciso di lanciare le procedure di infrazione per Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca per i mancati ricollocamenti dei profughi da Italia e Grecia. Ben venga. Improvvisamente poi parla di ricatto. Cioè, a me fa impazzire il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó. Parla di ricatto, ma adesso un puro ricatto è un atto anti-europeo. Ma abbiate pazienza, c'è un accordo europeo. Noi siamo anni come Italia che becchiamo, abbiamo un rischio, sanzioni per qualunque cosa, sanzioni per avere la procedura di infrazione per non avere rispettato il tetto del deficit, procedure di infrazione per il caso degli aiuti di Stato, e voglio dire, questi non rispettano un accordo europeo, si beccano le procedure di infrazione, o le usiamo solo per il deficit e non per i migranti le procedure di infrazione. Comunque la Commissione Europea ha anche chiesto all'Italia di compiere maggiori sforzi per assicurare il ricollocamento di tutti i richiedenti asilo candidabili. Comunque, venendo all'Italia, dicevo, vedo molti messaggi sul lato demografico, ce ne occuperemo dalle 18 in poi, però su questo, sui dati Istat che certificano per il secondo anno un calo delle nascite, cioè delle nascite sotto il 500.000, 473.000, ripeto, 12.000 in meno anche del 2015, e quindi una popolazione residente che continua a calare, con un unico aumento per gli stranieri. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, e oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. I dati sulla demografia che l'Istat diffonde periodicamente raccontano di un paese sempre più vecchio e di una crisi di natalità ormai endemica e solo in minima parte compensata dagli immigrati. È un rapporto che ormai ha il sapore di un triste déjà vu. Ma tra i dati diffusi oggi c'è un particolare che deve far riflettere. Più di 1.330.000 persone, 46.000 in più rispetto al 2015, nel corso dell'anno scorso ha trasferito la sua residenza all'interno delle regioni italiane. E provate a indovinare qual è la direzione di questa nuova ondata di migrazione interna, dal sud al nord naturalmente, passando però per il centro. Il record di fughe spetta alla Basilicata. Nei dati di questa tendenza c'è anche il fenomeno dell'immigrazione di extracomunitari che approdano nelle regioni del sud e poi si trasferiscono in altri paesi europei, per lo più o in misura minore nel nord Italia. Anche se gli stranieri rappresentano l'8,3% della popolazione, essi contribuiscono al movimento interno per circa il 17%. Ciò nonostante il flusso di partenza di cittadini italiani dal sud al nord non viene compensato dagli arrivi di immigrati extracomunitari. Le regioni più attrattive risultano ad oggi l'Emilia-Romagna e la Toscana, seguite dalla Liguria. Se a questo dato di spopolamento del mezzogiorno accoppiamo quello dei 144.000 italiani che sono partiti per l'estero nel 2016, ne emerge una fotografia di un paese che non può non considerare prioritario il rilancio dello sviluppo e degli investimenti, soprattutto nel mezzogiorno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. ancora due notizie per quello che riguarda l'asta. Sempre bene oggi il collocamento del nostro debito sul mercato. Il tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi e mezzo di BTP a 3 e 7 anni. Rendimento che è sceso di molto, dallo 0,37% di maggio allo 0,15%. E anche il BTP a 7 anni è sceso dall'1,65% all'1,35%. Cioè ci costa sempre meno trovare finanziatori per il nostro debito anche a 7 anni, ripeto, 30 punti base di differenza non sono pochi, dall'1,65 all'1,35%. Veniamo poi al del PIL, parleremo più avanti nel corso del programma del PIL, della previsione del PIL di ieri fatta dal Fondo Monetario Internazionale. Vorrei dare un'ultima notizia in breve. So che qualcuno si metterà così a ridere o a sorridere. Da oggi l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è ufficialmente la A2, ossia autostrada del Mediterraneo. Questo è stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di comunicazione per la valorizzazione turistica della nuova A2. Il cambio di nome era già stato annunciato il 22 dicembre, ma adesso mancava il passaggio formale. Quindi non si chiamerà più A3, ma A2, autostrada del Mediterraneo, lunga 436 km. Inizia in località Fisciano, provincia di Salerno, dove ha sede anche l'Università degli Studi, e termina a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, dove ci si imbarca, se non ricordo male, attraversa i vari territori. La conclusione si spera, lo dice il presidente dell'ANAS, che possa arrivare anche un po' prima di fine anno. L'obiettivo condiviso nella fusione FS-ANAS, condiviso sia da Armani che da Mazzoncini, di chiudere l'operazione FS-ANAS entro fine anno, ma sentiamo al microfono della nostra Santa Scapesi il ministro dei trasporti Graziano Del Rio sulla nascita ufficiale della A2, che poi si chiami A2, A3, A4, il ritorno della A2, A2 alla vendetta, aggiungo io. Faccio solo notare che qui il problema non è il nome, in un paese molto attaccato ai nominalismi, poco alla concretezza. Il problema sono i tempi che ci ha messo a essere realizzata, le infiltrazioni camorristiche dell''Ndrangheta e quello che è costata. E i dati sono impietosi sul raffronto. Comunque, Del Rio prima e poi il ruolo che potrà avere, secondo il ministro Franceschini, per i flussi turistici. Questa autostrada del Mediterraneo, proprio oggi, da oggi ho firmato il decreto che la rinomina. È una strada che ha avuto una storia lunghissima, è una storia di insuccesso, di fallimenti anche. E adesso invece è diventata una storia di un'opera completata a servizio del territorio, ma soprattutto di un'opera che diventerà sempre più tecnologica, la prima smart road italiana, che vuol dire attrezzata con le più moderne tecnologie per garantire più sicurezza, per garantire addirittura la guida autonoma del veicolo. I veicoli verranno presto prodotti per andare da soli, senza guidatore. E questa è un'esperienza all'avanguardia in Europa, abbiamo già pubblicato il bando, quindi sarà una storia anche di tecnologia, di futuro, ma continuiamo a scoprire la bellezza dei nostri territori antichi uscendo dall'autostrada ogni tanto e andando a fare un'esperienza tra quelle che ci sono proposte in questo bellissimo programma. Noi abbiamo questo paradosso, il mezzogiorno, il sud Italia è pieno di bellezze straordinarie e soltanto meno del 15% dei turisti internazionali va sotto Roma. Eppure c'è la campagna, le isole, la Sicilia, i bronzi di Riace, i sassi di Matera, Pompei, Pestum, potrei proseguire all'infinito. E quindi l'autostrada del Mediterraneo collega questi posti, non soltanto come momento di passaggio, ma anche per farli scoprire. Quindi questa campagna promozionale consentirà di indicare ai viaggiatori il cibo, le identità locali, i borghi, le bellezze naturali, il mare, le città d'arte. È veramente una cosa importante che va nella direzione su cui noi stiamo lavorando. L'Italia è un grande museo diffuso, non ha soltanto le grandi capitali dell'arte conosciute in tutto il mondo, ha luoghi meravigliosi che devono essere scoperti e possono far diventare la cultura e il turismo un fattore di crescita intelligente e anche di occupazione. Torniamo in apertura sul tema delle banche vente. Guardate, c'è poco, come ci spiegavo ieri molti ascoltatori, c'è poco da dire, si arrangino, cavoli loro, ci sono i dipendenti, decine di migliaia, 11 miliardi di costo complessivo, i correntisti, gli azionisti, ormai quelli hanno già pagato, i correntisti, gli obbligazionisti, se scatta il bail-in. Allora, questa mattina Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo, uno dei principali protagonisti, cioè quello che è chiaro è che se non partono Unicredit con Mustier, Intesa San Paolo con Messina, difficilmente le altre banche si aggregheranno. Ricordo a tutti che la situazione si è ingarbugliata ulteriormente quando a sorpresa la Commissione Europea ha chiesto all'Italia, ha detto sì, se volete che lo Stato entri con una quota importante che doveva essere di 4,7 miliardi, no, un miliardo deve arrivare dai privati e quindi lo Stato per ricapitalizzare da 6 miliardi e 400 milioni, una parte, un miliardo, circa 300 milioni sono frutto di operazioni interne, però un miliardo deve arrivare dai privati e questo per permettere 3 miliardi e 700 milioni a carico del tesoro. Ricordo che lo scorso anno le due banche hanno perso rispettivamente 1 miliardo e 9, 1 miliardo e mezzo di euro, sono 10.000 dipendenti quasi, 9.600 dipendenti con 1.000 filiali. Nel frattempo c'è un altro fronte che si apre, ma per motivi diversi, la Cassa di Risparmio di Genova. Lì c'era Bastianini, l'amministratore delegato sfiduciato da buona parte del CDA, che si è dimesso. Il titolo in borsa ha perso il 52%, la capitalizzazione è a 180 milioni, Bastianini aveva messo in cantiere un aumento di capitale da quasi 500 milioni di euro, ma non era d'accordo l'azionista di maggioranza relativa, ossia Vittorio Malacalza, che ne ha chiesto la sfiducia e non con una maggioranza netta, cioè la maggioranza sicura, ma non il CDA si è abbastanza spaccato. Comunque è stato fatto dimettere Bastianini. Chiedo a Marco Ferrando un punto sia sull'incontro questa mattina del Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo, sia per quello che riguarda la Cassa di Risparmio di Genova. Buonasera Marco, innanzitutto. Buonasera a voi. E grazie anche a Lando Maria Sileoni, che è il segretario generale della FABI, la principale organizzazione sindacale dei bancari, che oggi ha tenuto il Consiglio Nazionale. Buonasera anche a lei, Sileoni. Buonasera Barisoni, grazie. Devo dire che oggi, visto che da Bruxelles dicono sostanzialmente si può arrivare a una soluzione senza bail-in, senza il bail-in degli obbligazionisti senior con i depositi completamente garantiti. Allora Marco, facci il punto prima sulle venete, poi arriviamo a Carige dopo il meteo. Sì, rapidissimamente, sulle venete questa mattina c'è da segnalare anche un comunicato del ministro Padoan che ha detto che ha definito prossima la soluzione. E in sostanza sembra che si stia costruendo quello che abbiamo immaginato nei giorni scorsi, cioè una revisione del piano con aumento di capitale da circa 5 miliardi più la conversione dei bond subordinati, dentro al quale ci dovrebbe essere questo contributo extra dei privati da 1 miliardo e 200 milioni. Perché la palla nel campo dell'Europa? Perché spetta alla BCE insieme alla Commissione Europea di validare di fatto il piano, un ok che, stando al comunicato di Padoan, stando alle conferme che comunque, come dicevi tu, arrivano da Bruxelles, un ok che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in modo da consentire di avviare la capitalizzazione a carico dello Stato e procedere con un semi bail-in, una condivisione del rischio che quindi azzererebbe le azioni, azzererebbe, salvo poi probabile… azioni che sono già a zero, ricordiamole, sono… Sì, diciamo le vecchie azioni sono a zero, in teoria oggi Atlante è socio di maggioranza, però destinato a essere a sua volta azzerato, sarebbero però salvi, come si diceva, obbligazionisti senior e soprattutto i depositi sopra i 100.000 euro. Questo dovrebbe avvenire entro fine settimana, anche perché c'è una scadenza fondamentale tra fine settimana e inizio della prossima, che è la scadenza di un bond subordinato Veneto Banca. Importo limitato. Scusami, però non ho capito una cosa, Marco, ma questa soluzione sarebbe possibile con la partecipazione delle banche? Assolutamente sì. Cioè solo se se il sistema bancario italiano si accolla a questo miliardo? Esatto, miliardo, miliardo e due. Si può pensare a un semi bail-in, che è un obbrobrio terminologico, comunque ho capito, cioè una cosa che non vada a colpire gli obbligazionisti senior e i correntisti, anche quelli sopra i 100.000 euro. Esattamente. Però è fondamentale che partecipi il sistema bancario. Sì, quello che è emerso dal Consiglio di Intesa di oggi e che non ha deciso, perché non c'è ancora nulla su cui decidere, su cui esprimersi, però è una disponibilità di massima, quindi la disponibilità di Intesa c'è, di Unicredit anche, anzi si dice che Mustier abbia un ruolo abbastanza importante in questa fase. C'è da dire però che probabilmente si profila un intervento con tutti o con nessuno, perché nel momento in cui intervenissero solo alcune banche e altre no, si potrebbero profilare alcune responsabilità per i consiglieri che hanno aderito. Diciamo, io azionista di minoranza, cioè azionista qualunque di una banca che decide di mettere ancora soldi in questa partita e quindi destinati inevitabilmente a essere persi, potrei chiedere conto di questo. Ecco perché le banche probabilmente interverranno tutte e non interverrà nessuno. E su questo poi lascio lo spazio al meteo. La sensazione che si è avuta oggi dopo Intesa, CDA di Intesa, è ancora un prendere tempo? Entro fine settimana, domani Padoan farà il question time su questo, la scadenza del bond subordinato che accennavo è fine settimana, l'idea è che entro fine settimana si chiuda la partita in un modo o nell'altro. Allora, dopo il meteo vorrei sentire lei, Sileoni, la cosa preoccupa appunto il mondo dei bancari, e parliamo anche della Cassa del Risparmio di Genova, 349-238-6666 per sms e whatsapp. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Lando Maria Sileoni, oggi avete avuto il Consiglio Nazionale della Federazione Bancaria, la principale organizzazione sindacale dei bancari, la FABI, di cui lei è il segretario generale. Siete preoccupati per la tenuta occupazionale delle 10.000 persone e anche per la Cassa di Risparmio di Genova? Siamo preoccupati per le due banche venete, siamo preoccupati per MPS perché ci aspettiamo il piano industriale che è già stato concordato fra MPS e la Commissione Europea per fine mese. E chiaramente siamo anche preoccupati in parte anche per Carige. Ora, oggi le due priorità sono le due venete e MPS. Sulle due venete, se mi permette, vorrei fare due considerazioni. È sconcertante la latitanza degli imprenditori locali, questo è il primo punto. Beh, oggi, Benetton oggi ha detto che non ha nessuna intenzione di entrare nell'operazione. Secondo me hanno avuto il buon senso di non chiedercelo. Ha detto Gilberto Benetton, perché quando parliamo di privati per queste banche è un qualcosa che non esiste, hanno buon senso di non approfondire. Le banche sono state tirate per la giacchetta e hanno reagito, gli imprenditori non c'entrano niente. Questo Gilberto Benetton oggi da Milano. Prego. Il secondo aspetto, ha ragione lei, cioè se il ministro Padoan ha detto, come ha detto, che esclude il bail-in, è chiaro che prevede un intervento delle banche, perché se non c'è un intervento dei privati, solo le banche possono in qualche modo salvare le due banche venete. E ha ragione lei quando dice che poi si sta muovendo Unicredit, e muovendosi Unicredit ed Intesa, che vorrei ricordare a tutti che Intesa fino a qualche tempo fa era la banca di riferimento del paese, è Intesa che ha acquisito tutte le banche in difficoltà fino a 2 anni fa. Quindi se si dovessero muovere, come mi auguro e come noi speriamo, Unicredit e Intesa, è chiaro che a cascata dovrebbero arrivare le altre banche, ma non possono non arrivare, come dire, ad un contributo magari equamente diviso, perché se saltano le due banche venete, come lei sa, va in crisi tutto il settore bancario italiano. Sì, il costo sarebbe di 11 miliardi invece che 1 miliardo, però mi scusi Sileoni, qui c'è un problema, vedo molti ascoltatori che scrivono, vabbè, alcuni dicono ma chi se ne frega, non capiscono il problema sistemico del far saltare una banca, però di fondo c'è un ragionamento, ma insomma, perché se le banche sono sistemiche, quindi non possono saltare e chiudere come fa un'impresa normale, un negozio normale, un artigiano normale, una partita IVA normale, e dobbiamo poi accollarci noi il carico, il costo della mala gestione, allora perché sono soggetti privati quando c'è da fare utile e soggetti pubblici quando vanno in crisi? E qui il tema è gli ex vertici di queste banche, ma voi non potreste fare un'azione un po' più forte come dipendenti? Chiedo, perché la sensazione è che vabbè, i manager hanno sbagliato, probabilmente hanno anche guadagnato, top manager così, adesso sono fuori e i cocci li paghiamo noi. Guardi, io personalmente, Dica. Sì. Perché io poi oltre all'ingresso di Intesa e di Unicredit, mi scusi, ci sono comunque 4 miliardi di euro del tesoro, cioè pubblici, cioè nostri, eh? Guardi, due segretari generali dei sindacati del credito, io e l'altro collega da Megale della Fisica di CGL, abbiamo, perché abbiamo alzato il tiro un po' di tempo fa, abbiamo ricevuto, per farci tabbare la bocca, una richiesta da un vice direttore generale del Popolare di Vicenza di risarcimento di 200.000 euro, solo perché abbiamo detto che comunque secondo noi una parte del gruppo dirigente aveva delle responsabilità ormai evidenti rispetto alla gestione della Popolare di Vicenza. Quindi noi non è che abbiamo alzato il tiro, non è che non ci siamo fatti sentire, anche oggi io nella mia relazione di fronte ai banchieri, c'erano presenti tutti, e di fronte anche ai miei 1500 delegati ho detto chiaramente che lì ci sono delle responsabilità, ma come dice la Banca d'Italia, il governatore ha ragione su questo punto, ecco, loro fanno come dire, le ispezioni, poi passano la palla alla magistratura, non è il compito del sindacato o della Banca d'Italia intervenire in maniera energica rispetto a eventuali illeciti, quindi qui il problema è che chi dovrebbe prendersi le responsabilità fa fatica o ha una certa lentezza nel prendersele. Sì, per inciso io non ho mai capito, non è mia materia, perché il CSM non si sia interrogato su cosa è successo a Vicenza quando l'ex procuratore di Vicenza Antonio Fojadelli nel 2002 chiese di archiviare un'inchiesta portata avanti dal giudice Cecilia Carreri sulla Pop Vicenza. Secondo la Carreri già allora emergeva una totale mancanza di controllo sull'operato di Gianni Zonin. Fojadelli avvoca sé l'inchiesta, l'archivia. Tra l'altro il GIP respinge la richiesta di archiviazione e ordina l'imputazione coatta per Zonin. Nel 2005 Cecilia Carreri viene travolta stranamente da uno scandalo dai contorni oscuri nato dalla pubblicazione di una sua foto su un giornale locale che era in un luogo, poi lei dimostra che invece era regolarmente in quel luogo, comunque si dimette dalla magistratura. E per Zonin la vicenda si chiude nel 2005. Faccio notare che Fojadelli, l'ex procuratore capo di Vicenza, conclude la sua carriera di magistratura nel 2011 con i gradi di procuratore capo a Treviso, dove si è spostato nel frattempo. Nel 2015 Zonin lo chiama nel consiglio di amministrazione della Nord-Est Merchant, controllata dalla stessa Popolare di Vicenza. Non è l'unico caso di passaggio sospetto, è Luigi Amore, funzionario della vigilanza della Banca d'Italia, firma la verifica del 2001 degli ispettori e poi va a lavorare per la Popolare di Vicenza come responsabile dell'audit. Andrea Monorchio, 13 anni come ragioniere generale dello Stato, viene nominato nel Consiglio di amministrazione della Popolare di Vicenza e ne resta vicepresidente fino al 2014 e diventa una specie di ambasciatore di Zonina nei palazzi del potere. Giuseppe Ferrante, ex capo del nucleo di polizia tributaria di Vicenza, diventa responsabile della direzione antiriciclaggio della banca nel 2006. L'avvocato Massimo Pecori, figlio di uno dei PM di punta della procura cittadina, tutto regolare, ci mancherebbe, il problema è se era opportuno o no, ottiene incarichi per l'istituto, ma lui ha detto la Popolare ha centinaia di legali sotto contratto, infatti non c'è niente di irregolare, problema se è opportuno o no. Questo lo dico perché l'intera vicenda, non so se vi siano i profili per far intervenire anche il CSM. Marco Vessilone vuole commentare questo? Sì, no, volevo, se me lo consente, aggiungere una considerazione a quello che lei ha detto. Noi siamo convinti, nonostante il marasma generale della società italiana, in modo particolare del settore bancario, e lo sto dicendo non per plagiaria, ma noi siamo veramente convinti che, come dire, in questo marasma la magistratura è ancora l'ultimo baluardo prima del crollo della... Non ho mai detto il contrario. Della stessa democrazia. Quello che non ci quadra è un ragionamento come questo. Allora, partendo dal presupposto che i bancari sono le vittime, non i complici di questa situazione, perché i bancari gli dicevano di vendere quel prodotto o fare quell'operazione e loro lo facevano, no? L'abbiamo dimostrato in tutte le trasmissioni ad iniziare dalla sua. Il secondo aspetto fondamentale è che quelle sono due banche locali e all'interno di quelle due banche locali c'erano migliaia di clienti affezionati da sempre, da generazione, alle due banche locali, che hanno, come dire, si sono visti bruciati, le somme importanti di risparmio anche di una vita, e tutti stanno a guardare. Cioè, questo è il problema principale. Lì è successo di tutto e ancora non si capisce che... Cioè, lei si chiede perché non fiocchino le querele, le azioni, diciamo, verso la magistratura? No, io mi sto chiedendo principalmente per quale motivo come dire, ancora sì, come dire, ancora non c'è una presa di posizione netta, e mi auguro che ci sarà, chiaramente, perché come si usa dire, le indagini hanno il suo tempo, ma insomma lì le indagini è passato tanto di quel tempo, e ci sono personaggi che dal nostro punto di vista, almeno sotto l'aspetto politico, perché non sono un magistrato, ma sotto l'aspetto politico della gestione, hanno commesso delle irregolarità gravissime. Ecco, io mi chiedo come mai ancora non c'è un provvedimento. Allora, io vorrei sentire anche, adesso ci chiama anche Zaia su questo, che oggi era ospite di Simone Spezia a Effetto Giorno, però per parlare di vaccini ci mancherebbe altro tema importantissimo, però una presa di posizione netta non solo sulla necessità di salvare le banche, ma anche su che cosa è successo in quel territorio, perché insomma sia Zonin che Consoli per esperienza diretta erano potentissimi in quel territorio, non è che fossero degli sconosciuti banchieri, di che stiamo parlando? Marco Ferrando, ancora un attimo di pazienza al traffico e poi la Cassa di Spam di Genova. Focus Economia. Allora, Marco Ferrando, arrivo da te. Mi dica una cosa però, Sileoni, ma in questi anni, me lo scrivono molti ascoltatori, i sindacati interni alla Popolare di Vicenza e a Veneto Banca nulla hanno visto? Senta, allora, anche questo è un luogo comune, perché più volte abbiamo dimostrato con tanto di documenti che noi sull'argomento siamo entrati a gamba tesa più volte, soprattutto chiaramente noi, io come segretario generale, perché mi occupo di tutte le banche, ma in modo particolare i sindacati aziendali e tutte le sigle sindacali. Quindi l'argomento era noto, e noi siamo intervenuti scrivendo, abbiamo gli atti, l'abbiamo dimostrato, penso che ce l'abbia anche la procura, la lettera che noi scrivemmo a suo tempo mettendo in mora la banca, ma il problema vorrei riallacciarmi brevemente a quello che lei diceva prima, lì in quel territorio purtroppo e in quelle banche sono mancati gli anticorpi. Un tema su cui bisogna riflettere è quello, ricorda molto per alcune cose, fermo restando che Fabrizio Viola ai nostri microfoni ha detto che la situazione è stata molto peggiore, quella che lui ha trovato a Vicenza, che non a Siena, perché ha detto almeno a Siena non hanno fregato col valore delle azioni collocandole a prezzi fuori mercato, il titolo era quotato, invece a Vicenza e a Treviso sono riusciti a fare anche quello. Però ricordo un po' gli anticorpi che sono mancati a Siena, cioè la difesa dell'essere veneti, del territorio a Vicenza e a Treviso, e dell'essere appunto della sienesità a Siena. Guardi, il problema è una forma di errata, sbagliata di campanilismo. A Siena quello che è accaduto principalmente è accaduto perché i senesi, per loro natura, per secoli, non hanno mai fatto entrare nessun senese nei posti chiave. Il paradosso è stato che è stato un calabrese, ma no, poi che ha portato la banca a questa situazione. Io non ne farei un problema di regioni, ne farei no, un no, io di faccio una, invece ne faccio proprio un problema non solo di regione, ma anche di certe città, perché lo sfrenato campanilismo ha portato anche a Vicenza e a Montebelluna a chiudersi a riccio, no? E per rispondere ancora alla domanda che lei faceva prima, guardi, anche qui l'abbiamo dimostrato e non siamo mai stati smentiti, il 75% dei dipendenti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza ha investito i loro risparmi tutti in azioni e obbligazioni della banca. Quindi, Marco Ferrando, che sta succedendo in Cassa di Spam di Genova a questo punto? Non mi stupisce che Sileoni dica che non è tra le priorità vere, nel senso che viene subito dopo Carige. C'è un grosso problema di governance, nel senso che il socio che controlla di fatto, anche se ha soltanto in mano circa il 20%, che è Vittorio Malacalza, ha sfiduciato l'amministratore delegato Guido Bastianini, si sta cercando un nuovo amministratore delegato, si fanno i nomi di Francesco Iorio, che peraltro è stato, guarda caso, proprio a Vicenza un paio d'anni, oppure di Marina Natale, ad esempio, da poco uscita da Unicredit. Il problema è che si discute di governance, la banca non ha ancora avviato formalmente l'aumento di capitale che dovrebbe essere di 450 milioni, probabilmente sarà molto di più, e non ha ancora avviato la grande svendita, cessione di NPL che la BCE chiede di fare. E quindi l'impressione è che si discute di chi, ma in realtà bisognerebbe partire, aggredire il problema del cosa. Perché non dimentichiamo, esatto, che Carige oggi capitalizza circa 200 milioni, forse qualcosa di meno, e quindi affrontare un aumento da 4, 6, 800 milioni, certo, di euro non è un'operazione facile. Vabbè, vuol dire tre volte mal contati l'aumento, tre volte il capitale. Grazie Marco Ferrando e grazie anche al segretario generale della FABI Lando Maria Sileone. Andiamo sul GR24, poi la borsa e i temi demografici. Vaccini, il decreto della discordia. È giusto obbligare alla vaccinazione? È giusto escludere dalle scuole i bambini che non sono coperti? Il viaggio di Radio 24 all'interno del dibattito che divide le famiglie. Tutte le mattine alle 7 su Radio 24 e su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Wafer Lago. Wafer Lago, dolci emozioni italiane. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister I. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso la borsa e poi i dati dell'Istat sul continuo calo anagrafico per il secondo anno, appunto meno di mezzo milione di italiani sono nati, 473.000, 12.000 in meno anche rispetto al 2015, con un calo continuo dei residenti, un aumento degli stranieri di 20.000 unità, un calo della popolazione di cittadinanza italiana di 96.000 che porta il saldo a essere negativo di 76.000, ma ripeto, chi se ne va sono tutti italiani o chi insomma, non viene quanto a residenza e invece chi arriva sono stranieri. Allora, la borsa rapidamente oggi in una giornata tutto sommato positiva per Milano più 0,85%, l'indice si riporta sopra i 21.000 punti, Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,60%, Londra meno 0,15%, Dow Jones più 0,36%, a parte Saipem meno 1, Snam meno 0,90%, Campari meno 0,80% e A2A meno 0,50%, bene gli altri, UbiBanca più 3,40%, Luxottica più 3,13%, Biperbanca più 2,5%, come Fiat Chrysler, Buzzi Unicem più 2,40 come Unipol, il 2,20 lo guadagna Jux, il 2% Generali, l'1,90 Prismian, l'1,60 Unicredit, Fineco Bank, ricordati, ed Exor. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Beni bancari, al di là delle banche vendite di cui abbiamo appena parlato, UBI al secondo giorno di aumento di capitale continua a salire e poi chiudiamo con Luxottica, molto bene, e anche OVS. Sì, molto bene il settore bancario. UBI al secondo giorno di aumento di capitale ha già collezionato diciamo un più 8% se si compone l'azione con il diritto necessario per sottoscrivere questo aumento del capitale di 400 milioni che ricordiamo era funzionale all'acquisto della nuova Banca Etruria, nuova Banca Marche e nuova Cari e Chieti. Buona la performance anche di Luxottica, si tratta di un rimbalzo favorito da due fattori. Innanzitutto un'indicazione di Morgan Stanley che vede sinergie addirittura per 800 milioni di euro dall'integrazione con la francese Essilor. Ricordiamo che la stima della società è di sinergie tra i 400 e i 600 milioni di euro a regime, tant'è che a Parigi oggi ne ha beneficiato la stessa Essilor, è stata tra le migliori, ha guadagnato il 2,6%. Sicuramente una delle storie più interessanti di giornata è stata quella di OVS, che ha guadagnato il 6,5%. Perché? Perché il gruppo di grandi il retailer dell'abbigliamento e vendita di grandi magazzini dell'abbigliamento ha il suo azionista, il fondo BC Partner che intende vendere la quota di riferimento il 30%, oggi le indiscrezioni hanno parlato di un interesse di Italmobiliare che dopo l'uscita da Italcementi ha diciamo un interesse a nuove operazioni di investimento. Italmobiliare ha smentito di avere operazioni alla portata, insomma in via di decisione, ma sicuramente la speculazione su OVS è rimasta, il titolo ha guadagnato il 6,5% e Italmobiliare invece ha avuto una giornata in calo perdendo anche l'1%, ha chiuso lo meno 0,5%. Allora, migliori e peggiori, Visibile Editore più 42%, Gambero Rosso più 30%, Digital 360 più 23%, Dime Group più 22%, Safebag più 17%, peggiori, Pininfarina meno 10%, Gala meno 9,60%, Full Six meno 7,90%, IT Way meno 6,30%, Invest meno 5,30%. Devo dire che altri titoli di cui mi chiedete si sono poco mossi. Exor va bene, più 1,60%, così come invece sono più al palo, mi chiedete di Eni più 0,30%, e volete sapere di Poste, meno 0,50%, Poste Italiane. Vedo ancora molti messaggi sulle banche venete, sui dipendenti dei bancari che non possono cavarsela così facilmente perché hanno collocato gli sportelli prodotti. Qualcuno mi scrive, però mi scrive un ascoltatore, sul cammino di Santiago de Compostela ho conosciuto un bancario bresciano in trasferta a Napoli, mi diceva che titoli e prodotti tossici a Napoli non se ne collocano la clientela perché se fai perdere soldi quelli ti aspettano fuori. E dice di aver lavorato meglio, tra virgolette meglio, aggiungo io, a Brescia. Dato meglio che a Brescia, perché io non so se addirittura arriviamo al fatto che a Napoli ti aspettino fuori dalla banca per non collocare prodotti tossici. Quello che noto è, me lo dico con massimo rispetto, un silenzio assordante da parte, lo dicevamo anche ieri, degli stakeholders, cioè non ci sono solo gli azionisti, ma tutti i portatori di interesse del Veneto, ecco perché stavamo cercando Zaia, ma tutte le varie comunità hanno qualcosa da dire su come sia stato possibile bruciare 11 miliardi di risparmi e mettere a rischio i correntisti, i dipendenti, i risparmi, cioè 11 miliardi di azioni, ma anche il resto, cioè nel senso c'è un silenzio, l'unica linea è devono essere salvate perché sennò perdiamo 11 miliardi. Benissimo, noi abbiamo chiesto autocritica, mai arrivata alla Consob e alla Banca d'Italia, e quindi la linea è uguale, ma non mi sembra che sia arrivata ugualmente dell'autocritica da parte del cosiddetto territorio, la comunità, le banche del territorio. Ecco, ha qualcosa da dire il territorio che va tra Vicenza e Treviso su quello che è successo in uno spazio così breve a due banche così grosse con andamenti e comportamenti sostanzialmente analoghi, cioè titoli pompati, non collocati in borsa, venduti la clientela in cambio del mutuo oppure addirittura dati i soldi per comprare i titoli, prestiti privilegiati ad altri? Ha qualcosa da dire il territorio, che sempre ha da dire quando si tratta di rivendicare la diversità? Giustamente, e lo dico da Veneto, quindi non mi potete accusare di essere, qualcuno mi dice che sono un traditore, un rinnegato, mi scrive un ascoltatore, ma se la stessa cosa della Popolare di Vicenza con le stesse dinamiche, quindi tutti gli intrecci, tra virgolette, anche con la procura lì, non si capisce perché abbia archiviato, la Guardia di Finanza, se fosse successa in Sicilia, come l'avremmo chiamata? Devo dire che ha ragione l'ascoltatore. Allora, prima di arrivare invece al dato demografico, giustamente il governo prende atto e, tra virgolette, non dico che festeggi, ma insomma si rallegra della previsione del Fondo Monetario Internazionale diffusa ieri. Faccio notare, invito tutti un po' di prudenza, perché ben venga un fondo monetario che riveda nettamente al rialzo dallo 0,8 all'1,3% il PIL quest'anno, poi lo porta all'1% l'anno prossimo. Faccio notare che l'OCSE dice ancora l'1%, la Commissione Europea 0,9%, il governo 1-1, speriamo tutti che abbia ragione il Fondo Monetario, cioè tutti dovremmo tifare perché l'economia cresca più delle attese, non si può essere tafazzi su questo, però insomma, il Fondo Monetario lavora con i dati che noi gli forniamo. Comunque il premier Gentiloni che parla di lancio spaziale per la crescita. Diverse notizie negli ultimi giorni che ci arrivano e che ci fanno intravedere previsioni di crescita maggiori di quelle che erano state immaginate. Lo devo dire da Presidente del Consiglio, mi colpisce che ieri il Fondo Monetario Internazionale abbia corretto le sue previsioni sulla crescita in Italia quest'anno, nel 2017, ma non corretto di un'antichia, come si dice a Roma, ma c'è stato un lancio nello spazio, nel senso che siamo passati a gennaio da una previsione dello 0,7 per la crescita di quest'anno, a giugno ha una previsione dell'1,3. è una bella crescita dal punto di vista della previsione di un'istituzione internazionale importante come il Fondo Monetario. Io ho la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora enorme, perché le grandi cifre, oggi ne abbiamo avute di positive anche sulla produzione industriale da parte del Centro Studi della Confindustria, le grandi cifre non si traducono immediatamente nella risposta alle esigenze delle famiglie, del lavoro per i giovani. Abbiamo moltissimo ancora da fare e da lavorare. Allora, anche il ministro dell'economia Padoan dice: revisione del PIL gigantesca ma non basta, non sono stupito. Il governo, non so ancora quanto vivrà questo governo, spero che il prossimo spinga sulla crescita e sulle riforme. Allora, poi il Centro Studi di Confindustria oggi diffonde un dato sull'aumento della produzione industriale dello 0,5% a maggio. Devo dire che, attenzione, è ovvio che non si può neanche chiedere al governo di non essere contento se nell'arco di due settimane abbiamo avuto un dato sull'occupazione diffuso dall'Istat migliore delle attese, un dato sul PIL, sia quello previsto dall'Istat sia quello previsto dal Fondo Monetario, nettamente migliore delle attese. È ovvio che il governo di qualunque colore esulterebbe su. Dopodiché vediamo quanto terranno queste previsioni. È anche vero che la crescita acquisita è già intorno allo 0,9%, quindi insomma ci si può arrivare all'1,3%, e ripeto, tutti dobbiamo tifare per questo, perché un PIL più forte non vuol dire solo un'economia che cresce di più, vuol dire anche un deficit PIL più basso, e quindi si spera una manovra per il 2018 un po' più bassa come entità rispetto alle attese. Andiamo sul traffico e poi vorrei invece commentare i dati anagrafici dell'Istat diffusione. Focus Economia. :21 il dato è inequivocabile, continuano a calare i residenti in Italia, 60,5 milioni nel 2016, un calo di 76.000 unità che in realtà è il risultato di 97.000 italiani in meno di cittadinanza italiana, mentre ci sono 21.000 stranieri in più, il saldo fa 76.000 residenti in meno. Continua il calo delle nascite per il secondo anno sotto le 500.000, nel senso ci sono 12.000 nascite in meno, 473.000, di cui 69.000 stranieri, tant'è che gli stranieri sono l'8% dei residenti ma il 15% delle nascite. E poi il flusso migratorio dal sud verso nord, abbiamo province che hanno un saldo attivo più 5,4 per mille, Emilia Romagna e Toscana, segue la Liguria più 4,8 per mille, la provincia di Bolzano più 4,3 per mille. E invece sul fronte opposto abbiamo tutte le regioni del sud con valori negativi, la peggiore è meno 4 per mille della Basilicata. Professor Maurizio Ferrera, che insegna scienza della politica alla Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali all'Università di Milano, buonasera. Buonasera a voi. Il punto è molto semplice: c'è stata la crisi, i flussi migratori, però quando tu vai a vedere le politiche per la famiglia, il caso è sempre quello, è quello francese, l'unico paese in Europa che ha un tasso di natalità in cui ci sono più nati che morti, e le mamme francesi hanno in media due figli a testa, prendono 185 euro al mese più un premio di 1.000 euro alla nascita, si chiama prestazione di accoglienza del bambino, che viene elargito dopo il quarto mese di gravidanza, in modo da poter permettere anche le spese iniziali, dura fino a 3 anni di età, poi gli assegni familiari per chi ha due figli, 130 euro al mese aggiuntivi, per chi ne ha 3, 300 euro, e per chi ne ha più di 3, altri 165 euro, e poi fondi per ottenere un aiuto per il babysitter e custodia del bambino. L'unica regione in Italia che si distingue rispetto alla media della demografia è è l'Alto Adige, il Trentino Alto Adige, dove in realtà noi abbiamo un dato complessivo di 1,37 bambini per donna, mentre la Francia va oltre i 2, però dicevo, lei, la Francia investe il 4% del PIL per le famiglie e i bambini, noi non arriviamo al 2%. Gli asili tra l'altro sono diffusissimi, da noi purtroppo si è arrivati a un dato sugli asili devastante anche per la prima volta nella parte degli asili nido. Ma dicevo, l'unica regione è l'Alto Adige perché ha delle politiche molto molto attive in Trentino. L'Agenzia della Famiglia aiuta 37.000 nuclei familiari e già nel 2016 erano 47.000, spende 73 milioni di euro all'anno. I bambini dagli 0 a 3 anni in Trentino ricevono un assegno di 200 euro al mese se la famiglia ha un reddito di non superiore agli 80.000 euro l'anno, cioè il 90% delle famiglie. Quindi il tema si chiama, al di là delle dichiarazioni di intenti, politiche per la famiglia, quoziente familiare? Sì, io direi politiche per la famiglia. Sul quoziente familiare dobbiamo riflettere, perché ha il rischio di disincentivare l'occupazione femminile. Mentre noi abbiamo un tasso di occupazione femminile molto basso, il che, non deve ingannarci, non pone le condizioni perché si facciano più figli, ma come dimostrano i dati, perché se ne facciano di meno. Infatti le donne oggi non vogliono più essere messe di fronte all'alternativa se fare un figlio o se lavorare, vogliono essere poste in grado di fare entrambe le cose. Un trend comprensibilissimo, visto che oggi le giovani donne hanno lo stesso tasso di scolarizzazione degli uomini, e dunque dopo aver investito così tanto nella propria istruzione e acquisizione di competenze, è chiaro, insomma. È chiaro che, ecco. Per cui non solo, ma se guardiamo non solo la Francia, che ha almeno 10 punti percentuali di occupazione femminile più di noi, ma i paesi dell'Europa continentale, del nord, soprattutto quelli scandinavi, ormai direi da decenni si dimostra il fatto che più le donne sono messe in grado di lavorare, di conciliare il lavoro con la vita professionale, più aumentano i tassi di natalità. Quindi mi scusi, vuol dire sia diciamo i bonus per i bebè, detti quelli che vengono fatti in altri paesi, ma faccio notare che il congedo riservato ai padri in Italia è un massimo di 3 giorni. Nei paesi OCSE sono 8 settimane, le madri 47 giorni, nel resto dei paesi OCSE 54 settimane, contro le 47 settimane italiane per la maternità e tra maternità e congedo parentale. Quindi lei dice soldi, ma anche diciamo politiche attive intese come congedi. Servizi. Allora, servizi per facilitare la conciliazione. Lei prima ha detto che in Italia la frequenza al nido, insomma alle istituzioni prescolari, è bassa. In realtà siamo è alta tra i 3 e i 6, la cosiddetta scuola materna, ma è bassissima nella cosiddetta scuola d'infanzia. Infatti l'accesso di bambini di età compresa tra gli 0 e 2 anni alla formazione prescolastica è calato, mentre in tutto l'OCSE è cresciuto del 5%, solo da noi è calato. Certo, perché non ci sono. Non ci sono, quelli che ci sono costano molto cari, cioè gli asili pubblici, che pure non sono quasi mai completamente gratis, perché c'è comunque una fee da pagare, sono pochi, soprattutto nel mezzogiorno. Gli asili privati sono molto costosi e dunque una giovane madre ha difficoltà a rientrare nel posto di lavoro, ammesso che ci fosse già, o a cercare lavoro dopo la nascita di un figlio, in particolare il secondo figlio, perché non le conviene. I soldi che deve spendere per mandare il figlio all'asilo nido e poi magari avere qualcuno che lo accompagni, che lo vada a prendere, non so, un problema per l'estate. A 2 anni andare da soli all'asilo è un po' dura, adesso con tutto che sono più emancipati. No, nel senso che magari non ha la possibilità di andarlo a prendere lei o il padre, perché il lavoro dura più a lungo. Nei paesi scandinavi gli asili nido sono aperti 24 ore perché, come dire, rispondono anche ai bisogni dei genitori che lavorano di notte. Allora, quello è una grossa parte del problema. L'altra grossa parte del problema è quella che diceva lei, ma non si chiama tanto bonus bebè, si chiama assegno universale ai figli. Cioè che non ci sono solo in Francia dal secondo figlio, però per il primo ci sono delle altre cose, ma ci sono in quasi tutti i paesi europei, anche in Germania, in Austria, per non parlare naturalmente dei paesi scandinavi, e ci sono anche per le giovani coppie che hanno, in cui i genitori magari hanno tra i 20 e i 25 anni, perché il problema nostro è anche che il primo figlio si fa molto tardi, nel nord ormai. Sì, poi c'è tutto il tema, poi c'è tutto il tema anche di quello che tu fai. Adesso io dico per esperienza diretta, insomma, abbiamo ancora un sistema in cui le scuole elementari anche chiudono prestissimo, inizio giugno. Chi se ne frega dove molli i tuoi figli da giugno a luglio? Non penso che i dipendenti possano fare più, se va bene, di 3 settimane o un mese di vacanza, no? Per cui l'importante è che le scuole debbano chiudere inizio giugno. Si può anche ripensare al calendario scolastico. Ma detto ciò, nel ringraziare Maurizio Ferrera, ogni anno commentiamo un calo, un dato peggiore sulla demografia, e ogni anno torniamo sempre lì, politiche attive per la famiglia, ma questo è un paese bellissimo perché preferisce discutere per anni sulle unioni civili, vabbè, uno la pensi come vuole, le unioni civili, l'eterosessualità, l'omosessualità, tutti i discorsi, tutto molto interessante, poi quando c'è da fare qualcosa di concreto per chi i figli li fa già e li deve mandare a scuola, non si muove mai un euro, meglio buttarla sempre sul fronte ideologico. Grazie anche a Maurizio Ferrera, ed è tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.